Huracán. El mar, el mar, el mar, Bubo Carcán. Wangande, Timanuelino, Wangande, Timanuelino, Timanche, Timanuelino, Timanuado, Timanuelino, Jasmine, Timanuelino. Fenda una beti manuelino, chela una beti manuelino, nyanga na beti manuelino, nyangeli na beti manuelino, kwagele na beti manuelino, kwagele na beti manuelino, kwangande beti manuelino, wadora na beti manuelino, wadora na beti manuelino, kwanjuma na beti manuelino, kwanjuma na beti manuelino, kwangande beti manuelino. Changa ina beti mavelino, kwangande beti mavelino. Eliman, Eliman, ni Eliman, Abubakar kan. Mwadiyan koi ti mavelino, mwadiyan o ti mavelino, teknise am yo ti mavelino, kwanganda ti mavelino. Amejeng yo di maweli nan Ademani la di maweli ya Kwangande di maweli ya Jena basama di maweli non Jena basama di maweli non Hawasi di maweli ya Mama bari yo di maweli ya Mama bari yo di maweli ya Elma Elman, Elman, Abubakar kan. Jaliya salam alayhi wa jaliya Allah.